Scendo con i ragazzi, quelli pazzi, le roliamo dentro i tazzi. Poi in un loft è un'osi, tre palazzi, sul mar mo' pieni schiazzi. Prima stavo negli squat, adesso lei mi fa gli squat davanti. Su e giù, perché quando rappo dalle casse escono i diamanti. Jamie Tights, le strafe mi non le rifai neanche con 10 statue. Lo faccio solo per i fan e per i bra che sanno meritarle. Anche 10 al giorno posso registrarne. I nemici me li fumo, Gengis Khan. Nuovo DJ, proprio un po' di barre. Tu pensi di svoltare con i pan? Bevo come Colin Farrell, con gli occhi bianchi e rosi come i Gunner. Sono cresciuto solo con gli Zarie e i coatti abbronzati come Farrell, che guardavano le rapine al telegiornale e poi sognavano di farle. E adesso a quelle persone cosa è successo? Gridano su un palco e la gente sa a memoria il testo. Fidati che per andarsene è ancora presto. Noi siamo meglio della merda che hai richiesto. Metti i nostri nomi su palinsesto, dai. Tu non voti con noi bro, con noi bro, con noi bro. Tu non voti con noi bro, con noi bro. Tu non voti con noi bro, con noi bro. Tu non voti con noi bro, con noi bro. Tu non voti con noi bro, con noi bro. Yo, I bust on a beat like bust a bus. What the fuck, I'm gon' bust your buzz. Bust your bubble, uppercut. Yo, bitch, busty, I bust a nut. Bust off like I bust a gun. When a bust like me, you gon' bust your lungs. Bust one when I bust for fun. Bust what I want when I'm bustin' drunk. When I bust and I cuss, bust on the bus. Bust in the bitch, I bust in the gut. Bust in the cuff, she can't get enough. Bitch, wanna fuck, I'ma bust your butt. But, let me just wrap it up. Niggas, they huff and puff, we bust. But, we don't bluff. I'm telling you, don't fuck with us. Don't fuck with us. Get you zinc like octopus. Catch my Oculus. Cotton candy contraband, yeah. Copping grams across the land. Crops I crop on Instagram. What? Cops a clock and stop the van. Charges drop with just a band. Don't fuck with us, that's not the plan. Nope. Meanwhile, we back at the ranch. With females and checks in advance. Remy on deck, is you ready? Cause Jimmy got suffering suckers like Taz. Maniac, mainly rap, maybe trap. Who gives a fuck though? I think like a Buddhist, fit like a Rubik's, and love it so much to discuss ya. The message is basically fuck ya. I'm a heavy hitter with the flow. Gotta get it, here we go. Bigger, better, better, gotta hit it with the data that'll make your motherfuckers speak a blow. On the record, off the record, for the record, off the wall. Drop the record, that's the record. Shot the sheriff, shots like cold. Tu non voti con noi bro, con noi bro, con noi bro. Tu non voti con noi bro, con noi bro. Tu non voti con noi bro, con noi bro. Non voti con noi bro, con noi bro, yeah. Tu non